Volevo dedicare qualche minuto a introdurre questo titolo, forse un pochino critico, cioè amministrazione tra pubblico e privato, cioè in quel senso intendere questa relazione. Amministrazione all'origine è un termine fortemente fuori senso. Lo faceva notare Debra in un saggio abbastanza noto in cui si cercava di riscoprire le radici medievali, antiche radici canonistiche del diritto amministrativo. Amministrazione nelle fonti medievali, Debra diceva addirittura nello stesso documento, poteva ora significare l'esercizio di una funzione tout court sovrana, oppure la stessa condotta di governo, quindi una forma di autoritas, ma anche naturalmente la gestione di un patrimonio strettamente privato, oppure anche la proposizione di un ufficio e il relativo esercizio dell'ufficio. Amministrazione invece nel significato corrente di amministrazione pubblica, di ente privato, di amministrazione pubblica, è un termine molto più recente. Non risale, qui ci sono studi lessicografici anche recenti, abbastanza precisi, molto al di là della metà del Settecento. E a partire da questa data, e poi per tutto il corso dell'Ottocento, che l'amministrazione diventa propriamente un soggetto di diritto pubblico, un'attività dello Stato per la realizzazione dei suoi scopi, secondo la definizione nota di Otto Mayer, ma che nel corso dell'Ottocento è definizione di uso ampiamente corrente. Cioè che diventa amministrazione una funzione pubblica formalmente e materialmente distinta dalla funzione giurisdizionale. I compiti amministrativi divengono compiti dello Stato e vengono realizzati in via amministrativa. Lo Iustis Stat, il primato della giurisdizio, lascia un imposto. Naturalmente parlo dei paesi dell'Europa continentale, perché ovviamente i percorsi anglo-americani sono un po' molto diversi, lasciano il posto, dicevo, allo Stato al diritto amministrativo. L'amministrazione conquista dunque un suo specifico statuto giuridico, si consolida come organizzazione e come forma peculiare di attività dello Stato. Amministrazione dunque come attività dello Stato per il raggiungimento dei suoi scopi è un concetto relativamente recente. Al tempo stesso è un concetto che diciamo è costretto ad aggiornare i propri significati con una certa frequenza di fronte alle trasformazioni. Per esempio oggi direi l'amministrazione appare una nebulosa molto incerta, per la quale difficilmente i giuristi rischiano poi una definizione di sintesi. Per esempio, diceva Cassese, una nozione unitaria di sintesi di amministrazione non solo è inutile, ma è anche impossibile. L'amministrazione odierna quindi è priva di contorni precisi, è stata in certo qual modo travolta dalla dissoluzione dell'unità amministrativa, dal fatto che si sono sovrapposti statuti di azione tra loro fortemente differenziati, spesso contrapposti, ed è stata altresì fiaccata, indebolita, dall'evanescenza dell'interesse pubblico e dalla crescente incapacità della legge di governare gli interessi. Diceva Nigro, un nostro grande maestro, l'amministrazione oggi è diventata un enorme enigma. Le trasformazioni sono di tale peso che si arriva a sostenere, anche se in analisi a largo spettro comparativo, come una recente analisi di Marco D'Alberti, che la distanza tra l'esperienza anglo-americana, quindi tra paese di diritto comune, e l'esperienza invece dei paesi continentali, cioè dei paesi di diritto amministrativo, sia ormai vicina ad essere colmata. Ora, è evidente che le angolature dal quale osservare questi processi di trasformazione sono molteplici. Si può pensare all'angolatura di storia istituzionale, di storia sociale, di storia concettuale, questa a sua volta divaricata a seconda se si indaga il diritto amministrativo come droit savant, come sistema dogmatico, oppure una cultura dei funzionari, una cultura dei pratici. È evidente che cambiando, spostandosi da una cultura all'altra, viene a cambiare poi lo stesso concetto di amministrazione, che può essere ora un apparato amministrativo, un organo amministrativo in senso stretto, in cui si ricostruiscono le origini e i percorsi, o può diventare invece più pure la burocrazia, con tutti gli interrogativi che investono poi gli assetti delle classi dominanti, dai patriziati cittadini antico regime a le nuove professionalità borghesi ottocentesche, sino alle più recenti nazionalizzazioni piccolo borghesi, in cui, come ha descritto bene il recente libro della Salvati, si va diciamo, trasformando il rapporto tra regime e impiegati tra le due guerre. L'amministrazione può diventare poi pure diritto amministrativo o scienza dell'amministrazione, se si vuole, oppure diventare anche una pratica sociale, una cultura diffusa di ceto, del ceto appunto dei funzionari. Certamente non è un mio obiettivo quello di offrire una sintesi di queste diverse angolature, io non sarei in grado di farlo e sarebbe poi necessario comunque un arco cronologico che non sono in grado di dominare. L'angolatura che io ho scelto è un'angolatura parziale, risente come dire, fortemente di una giudiziale giuridica, ma in questo senso quindi amministrazione forse rientra più nei temi del primo seminario, cioè il concetto fondamentale della scienza dello Stato, ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di far vedere come questa iniziale ottocentesca fortissima connotazione pubblicistica venga pian piano stemperandosi, costringendo l'amministrazione ad assorbire una serie di elementi che vengono considerati invece all'origine come appartenenti al polo opposto della dicotomia, appunto all'universo delle relazioni private. E quindi estranei, diciamo, a quello che si considerava il nucleo più prettamente istituzionale dello Stato. A fine Ottocento le immagini di pubblico e di privato sono fortemente dicotomiche, sono fortemente opposte. Cerco di sintetizzarle rapidamente prendendole a prestito da un autore che ho letto recentemente, perché dico da me, uno dei nostri fondatori della scienza del diritto amministrativo, che è autore di una particolare lettura intrecciata appunto tra pubblico e privato, lui traduttore di libri di Pandette, ma autore tra i più importanti del nostro diritto amministrativo. Il diritto privato, in questa sintesi, comprendo un pochino come modernistica, cioè come rappresentativa di una coinea ottocentesca, il diritto privato è innanzitutto il regno dell'interesse individuale. In questo campo i rapporti giuridici si stringono tra i cittadini, tra loro, e agli stessi cittadini è affidata l'esecuzione degli stessi rapporti. La presenza dello Stato, che poi interviene, direi, come Stato giurisdizione, questo come Stato amministrazione, è del tutto eventuale ed è limitata alla sanzione della violazione delle pretese oggettive. E solo, quindi, tramite questa operazione giurisdizionale è indirizzata alla tutela, alla sanzione del diritto oggettivo. La funzione dello Stato, vista dall'universo privatistico, è essenzialmente circoscritta alla necessità di assicurare all'ordinamento giuridico privato gli indispensabili elementi di coazione. Non esistono nel diritto privato posizioni di supremazia precostituite. Almeno dal punto di vista giuridico formale, il diritto privato presuppone la perfetta uguaglianza degli interessi in conflitto. Naturalmente, abbiamo visto anche ieri, parlando di codice, anche il diritto privato è costituito da un insieme di norme, di comandi, è un diritto oggettivo. Con alcune particolarità, però, i destinatari sono considerati solo i cittadini. Cioè gli ordini dello Stato vengono presi in considerazione dal diritto privato, dalla norma, solo in modo sussidiario, cioè nell'eventualità che sia necessaria una sanzione di tipo giurisdizionale. Con questo è evidente che nell'Ottocento il anche il diritto che regola i rapporti interindividuali, i rapporti privati, appare comunque come una manifestazione della volontà dello Stato, cioè come un'espressione di una volontà superiore. Il diritto civile è quindi divenuto un diritto interamente statualizzato, ma affida ancora la sua stabilità alla centralità del soggetto e al primato dell'interesse individuale. Può fare ancora coesistere, direi senza eccessive, senza palesi contraddizioni, ordinamento giuridico e volontà individuale. Lo Stato è certo anche in questo caso sovranità, ma è privo di quei contorni apodittici di supremazia che incombono invece sull'altro polo dell'ordinamento, quello pubblicistico. E dunque ancora rispetta sostanzialmente lo statuto dei privati. Se passiamo invece a considerare sempre per estrema sintesi, quindi con necessari schematismi, l'altro polo dell'economia, il diritto pubblico, questo ci appare invece con caratteri strutturali fortemente differenziati, in molti casi diametralmente opposti. L'interesse individuale lascia il campo all'interesse collettivo, l'uguaglianza degli interessi in conflitto lascia il posto ad una radicale disuguaglianza, anche la stabilità e la percezione delle norme che nel diritto privato è assicurata una elaborazione plurisecolare, qui lascia il posto invece ad un carattere più incerto dell'ordinamento, quindi una fluttuazione e una mutabilità dell'ordinamento. Si tratta, diciamo, di caratteri in certo qual modo strutturali, cioè non transitori, perché si considerano come poggianti proprio sui motivi stessi che poi diciamo, fondano la dicotomia tra pubblico e privato. E quindi in questo senso sono elementi che il giurista trova come in qualche misura indisponibili, quindi condizionano il suo processo poi di costituzionalizzazione del potere e di giuridificazione dello stesso potere. Quindi c'è un super soggetto Stato che condiziona equilibrio e rapporti. La supremazia in genere è un dato che precede la norma e che resiste alla norma. L'amministrazione, per definizione, è forza sovrana. Quindi alla parità delle relazioni civilistiche si sostituisce la soggezione alla sovranità. La disuguaglianza degli interessi di conflitto contraddistingue le relazioni del cittadino con il potere ed incide direttamente poi sulla configurabilità giuridica degli istituti che assumono proprio per questo una loro inconfondibile specialità. La stessa norma assume nel diritto pubblico dei caratteri peculiari. Mutano intanto i destinatari della norma. Se la norma privatistica si indirizza prevalentemente ai cittadini, qui invece la norma si indirizza allo Stato e ai suoi organi. E questo non solo perché lo Stato è parte indefettibile del rapporto con il cittadino, ma perché la posizione del cittadino tende a essere definita dalla norma quasi mai in maniera diretta, ma soltanto in modo indiretto e reflesso. Quindi si fissa una relazione privilegiata che è quella tra la norma e il soggetto amministrativo. Solo accessoriamente, solo in un secondo momento, questa relazione giunge a comprendere e a considerare i soggetti individuali. Per concludere su questo punto si può dire dunque, sempre con gli schematismi di cui dovrebbe tener conto, che il diritto privato ci restituisce un'immagine ormai definita di stabilità, fondata sulla centralità dell'interesse individuale, sulla parità dei rapporti giuridici, sulla necessaria correlazione tra diritto oggettivo e soggettivo. Il diritto pubblico ci offre invece un'immagine fortemente in movimento. Vi si intravede il percorso della legalità, della giuridicizzazione del potere, dell'espansione delle forme di tutela, secondo un itinerario poi che in parte i giuristi dell'Ottocento considerano compiuto con l'introduzione della giustizia amministrativa, in parte ancora da realizzare. Dicevo però che l'immagine del pubblico rivelava dei tratti appunto indisponibili, che il giurista considera come, diciamo, elementi necessari indifettibili del pubblico stesso, l'interesse collettivo, la strutturale disparità del rapporto, anche la coincidenza del diritto oggettivo con il solo diritto soggettivo dello Stato, un genere oggettivo che difficilmente coesiste con il diritto soggettivo del cittadino. Il limitato potere imperativo della norma, la discrezionalità. Sono temi classici del diritto amministrativo ottocentesco, sono i cardini della specialità amministrativa, quei cardini su cui l'amministrazione costruisce poi il proprio sistema giuridico, il proprio regime di attività, la propria struttura organizzativa e anche il proprio sistema di tutela, la giustizia. In questo senso si può dire che i modelli descrittivi dell'amministrazione rifiutano i principi importanti del diritto privato. Il che però non significa che non esista un'ampia circolazione di invenzioni dogmatiche, favorita dal diffondersi del nuovo linguaggio del formalismo che da questo punto di vista unifica le discipline. Molto spesso il pubblico costruisce il proprio sistema teorico utilizzando costrutti dogmatici che vengono prodotti e offerti dalla professione civilistica, ma soltanto dopo averli profondamente trasformati, dopo averli pubblicizzati. I modelli quindi rimangono anche dopo questa circolazione importante di costrutti dogmatici, rimangono dei modelli di varietà. Nessuna capacità di uniformazione, diciamo che siamo in grado di intravedere, impedita in qualche modo da una forte frammentazione disciplinare. L'umbilum dei rifiuti civilistici, qui diciamo la teorizzazione più nota, quella di Mr. Peter, Fritz Planner, ha così il significato di una liberazione, si dice, si parlava di Befreiung, della specificità pubblicistica dei modelli varietari del diritto civile. È una sostituzione sistematica del Nervert alla Ausgleichung, che invece è considerata tipica, caratteristica delle relazioni. È vero che è esistita un'amministrazione, sempre per i giudizi ottocenteschi, profondamente influenzata dal diritto privato, ma questa amministrazione è lasciata al passato di uno Stato di polizia che è stato poi archiviato dai nuovi equilibri dello Stato di diritto. È solo nello Stato di polizia, dopo i giudizi ottocenteschi, che l'impossibilità di realizzare le opportune garanzie nella sfera dell'imperium ha spinto a ricercare in qualche modo a surrogare nell'ambito del diritto privato, cioè espandendo l'applicabilità del diritto privato all'amministrazione. È anche vero però che alla fine Ottocento la fiscus lege, che poi è uno degli obiettivi polemici principali di Maier, appare una dottrina del lontano passato e anche, credo proprio citare ancora Carmelo, anche agli occhi dei giuristi italiani, un suo eventuale ritorno apparirebbe il segno di un'involuzione regressiva. Quindi a fine Ottocento il diritto amministrativo si è affermato come un diritto comune nei rapporti tra Stato e cittadino. E si è affermato come diritto comune, l'affermazione non sembra un bisticcio, diciamo proprio a partire da questa sua specialità. Cioè rispetto al diritto comune civilistico, il diritto amministrativo è un altro diritto comune fondato su quei caratteri, quei principi che danno corpo a quell'immagine pubblica che ho cercato di riassumere. Un diritto, questo amministrativo, che non è fondato sui principi della parità, della contrattualità, della responsabilità, ma su quelli opposti della supremazia, della unilateralità, della limitata responsabilità. Non è un caso che il contratto vi venga bandito con una forma giuridica che è assolutamente inconciliabile con la stessa natura pubblicistica. Se per avventura si continua a parlare, specialmente la giurisprudenza, di contrattualità amministrativa, c'è tutta una vicenda italiana che ruota intorno alle concessioni di contratto, nell'ambito dogmatico invece si nutre con un genere solitario che è quello di provvedimento amministrativo, due categorie, autorizzazioni e concessioni, che nonostante il loro carattere non ablatorio, il loro carattere in definitiva favorevole per il cittadino, conservano non di meno il carattere dell'imprenditoria. Lo stesso termine di negozio giuridico, non solo contratto, ma anche negozio giuridico, che pure era stato, sono nomi importanti in questo senso, che almeno in Italia, in Francia, in Germania, in parte anche Kelsen, un percorso di avvicinamento dogmatico alla costruzione della volontà amministrativa tutt'altro che rilevante, lo stesso termine di negozio giuridico, dicevo, viene espunto dal sistema. Il diritto amministrativo si costruisce su principi e concetti propri e peculiari: il provvedimento, l'eccesso di potere, la responsabilità amministrativa e così via. Arriva poi a possedere, per un generale particolarmente significativo nel caso italiano, situazioni di vantaggio specifiche che non esistono nel diritto privato, è il caso dell'interesse pubblico. Ecco, questo statuto speciale, come dicevo, a un tempo comune della pubblica amministrazione, mantiene una propria razionalità, direi anche una certa capacità di adeguarsi alla realtà, sin tanto che l'amministrazione conserva i suoi caratteri ottocenteschi, che riassumo secondo una scaletta indicata anni fa sempre dal libro: la semplicità dell'organizzazione, la struttura centrata sostanzialmente unitaria, il carattere quasi esclusivamente autorizzativo della propria azione, l'intrinseca separatezza dalla società e dagli interessi. Ecco, l'avvento dell'intervenzione statale, su cui Mica ha scritto alcune pagine di grande significato, modifica profondamente questo volto ottocentesco dell'amministrazione, che perde progressivamente questi quattro caratteri che ho appena indicato. L'organizzazione da semplice che era si fa complessa, anche per le dimensioni rapidamente assunte da apparati e dagli organici. La struttura comunitaria si trasforma in multi organizzativa. Un nuovo carattere prestazionale dell'azione amministrativa prima si affianca e poi sovrasta rapidamente la tradizionale dimensione imperativa e autonomia. Si affermano infine nuove mediazioni con gli interessi, non più fissate soltanto dalla legge degli organi costituzionali vertici, ma come ci ha descritto il Gustavo, raggiunte direttamente dall'organizzazione attraverso i consigli, attraverso i collegi, attraverso le sue forme settoriali di rappresentanza degli interessi. È evidente che di fronte a queste trasformazioni le immagini che conosciamo, il pubblico e il privato, conoscono modificazioni rilevanti, consistenti. Direi che viene in particolare un elemento che per i giuristi ottocenteschi aveva un valore quasi costituzionale, e cioè la radicale alterità di pubblico e di privato. Interessi collettivi e interessi individuali sono sempre meno separabili. Direi che diventa sempre più problematica la stessa separatezza dell'ordinamento, che lascia il posto a sempre più intricati, ramificati, reciproci, intrecci tra diritto privato e diritto pubblico. Devo dire invece che a livello dei modelli descrittivi gli effetti, almeno per un lungo periodo, sono più limitati, più circoscritti. Si è costretti, certo, a modificare profondamente il concetto di pubblico. Qui ci sono alcuni scritti di Anelletti, di Italia, a cavallo della prima guerra mondiale, che sono fulminanti. E questo è necessario, diventa necessario per tenere dietro a un'espansione, una crescita dei compiti amministrativi. Cioè diventa evidente a questo punto, diciamo, tale da giurittiana, che la relativa identificazione di pubblico imperativo rischia di lasciare fuori dalla sfera statale una fetta sempre più consistente, più strategica, direi anche, di attività e di organizzazione. Di qui lo spostamento del culto del concetto di pubblico dall'imperium al fine, dalla supremazia all'interesse, con tutti i relativi effetti espansivi che questo spostamento concettuale ha di allargamento appunto della sfera pubblica, della sfera statale. In misura minore, però, si è costretti anche ad aggiornare il concetto di diritto privato. Si pensi, ad esempio, qui con un cenno minimale, però a progressivo appannarsi della signoria della volontà, altro grosso dogma ottocentesco, che Betti, per esempio, nel 40 può tranquillamente definire un dogma famigerato, che sarebbe un termine evidentemente incontrovertibile. concepibile solo pochi anni prima. E parallelamente si pensi anche al peso crescente che assume la definizione di diritto soggettivo privato, il concetto pierindiano di interesse, e come si trasforma la stessa categoria del negozio giuridico, che non è più una manifestazione di volontà, o comunque non è più, cioè è sempre meno una manifestazione di volontà, e sempre di più diventa un assetto di interesse. Ci sarebbe poi naturalmente tutto un altro grande discorso della soluzione del diritto privato, che è il passaggio poi dalla centralità dell'attività alla centralità dell'impresa, con tutti gli effetti poi di commercializzazione del diritto privato, che sono particolarmente sentiti tra le due parti. Si aggiustano dunque i concetti e si aggiustano anche le rispettive regolazioni di confine tra pubblico e privato, registrando questa avvenuta espansione della sfera. La tendenza a limitare la sfera del diritto privato, dicevamo, è una tendenza che nella pubblicistica si consolida già all'inizio del secolo. Invece è molto più complicato individuare quando i giuristi cominciano ad essere consapevoli del processo inverso, cioè quello di privatizzazione del diritto pubblico. Questo è un processo che viene registrato con notevole fatica, perché i giuristi, in poche parole, sono estremamente preoccupati per, con l'imperatività, anche in definitiva la stessa essenza statuale e quindi, in certo qual modo, la sovranità. L'abbandono della centralità dell'imperium quindi costringe a modificare, come dicevo, il concetto di pubblico, ma non implica immediatamente il riconoscimento che è in corso un processo di privatizzazione. Processo che viene in qualche modo esorcizzato, allontanato, perché è diventato pericoloso appunto per gli stessi equilibri del soggetto Stato. Non è un caso che siano costrutti dogmatici di tipo pubblicistico, anche se ormai non più identificati più pur con l'imperium, quelli che la scienza giuridica elabora e utilizza per concettualizzare i nuovi caratteri prestazionali dell'azione amministrativa. Il caso della nozione di service public in Francia, di öffentlicher Staat in Germania, di ente pubblico in Italia. Per un certo tratto, dunque, all'incirca fino agli anni 30, la scienza giuridica riesce ad arginare gli effetti delle trasformazioni, lasciando intatta sostanzialmente la dicotomia pubblico-privato e limitandosi a registrare l'allargamento della sovranità al di là della sfera pure semplice dell'impero. Dagli anni 30, qui forse il caso italiano è particolarmente interessante, penso al nuovo ordinamento del credo, l'istituzione dei libri, l'istituzione dei libri, inizia invece ad appannarsi la stessa dicotomia tra statuale e commerciale. L'inquadramento sindacale di molti soggetti, fino allora ascrivibili senza particolari problemi alla categoria degli enti pubblici, ha effetti travolgenti e generalizza fenomeni che in Italia sono in corso in realtà sino dall'età giovane. Il pubblico può assumere le vesti dell'anonima, della società per azioni. Il rapporto di impiego può essere disciplinato da un contratto collettivo, il giudizio del relativo contenzioso può non essere più di competenza di giustizia amministrativa, ma della magistratura, dell'Europa. Si tratta di trasformazioni rilevanti, tanto che in un primo tempo, mi riferisco sempre all'Italia, sarà la dottrina corporativistica a darvi un qualche assetto concettuale, parlando di azione della razza dello Stato, di società commerciali pubbliche, sino a che poi la formula, che poi è una formula combinatoria, è necessariamente combinatoria di ente pubblico economico, viene recepita dai giuristi ed inserita nel codice civile del 1942. È a questo punto che le nozioni unitarie degli istituti cessano di essere tali e diventano le morfologie, le nomenclature di quella nebulosa di cui ricordavo all'inizio. Va anche detto però che è la stessa amministrazione tradizionale, cioè quella che si è ritirata nell'ambito della quiescenza dell'impero, che si trasforma. È chiaro che sia la dorsale Stato-economia quella su cui in particolare si inclina la separatezza dei due rami dell'ordinamento, dove più da vicino si intrecciano e si confondono economico e politico, dove viene meno la grande distinzione ottocentesca tra finalità di lucro e finalità pubblica. però più lentamente, magari attraverso percorsi giurisprudenziali, quindi senza fratture immediatamente evidenti, si trasforma anche il volto della quest'anza. Credo il tempo sta un po' terminando, accenno semplicemente a due fenomeni attraverso i quali avviene questa trasformazione. Una è l'evoluzione del sindacato sull'eccesso di potere, in cui il controllo, diciamo, abbandona le forme ottocentesche tipiche di un rapporto tra soggetto amministrativo e norma e diventa sempre più un controllo sulla relazione, sul rapporto che l'amministrazione instaura con il cittadino. Secondo aspetto sono le unità convenzionali che emergono proprio anche nell'ambito dell'amministrazione imperativa, penso alla legge tedesca sul procedimento amministrativo, penso anche alla legge italiana del 90 sulla trasparenza amministrativa, dove la contrattualità arriva sino a quello che i giuristi ottocenteschi consideravano il numero più profondo della supremazia amministrativa, potendo investire direttamente il contenuto discrezionale del provvedimento. Si impongono quelli che oggi si definiscono accordi sostitutivi o determinativi di provvedimenti sulla base di una contrattualità che si affida, e questo è importante, salvo alcune modalità speciali, alla normativa generale, alla normativa civilistica su obbligazioni e contratti. Sono queste norme, che poi vengono sanzionate in sede di giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, che vengono applicate a questi accordi sostitutivi di provvedimento. Là, e poi si potrebbero fare altri riferimenti, il diritto comune, il diritto amministrativo comunitario, problemi recenti, la privatizzazione del pubblico impiego con il passaggio del contenzioso al giudice ordinario, eccetera. L'autonomia del diritto amministrativo, lo si è riconosciuto in particolare in Francia, sta diventando dunque sempre più un dogma falso, mentre sempre più importante, sempre più fondamentale risulta l'intreccio tra pubblico e privato ad ogni livello dell'amministrazione. Detto con, diciamo, accentuando un pochino le righe, si potrebbe quasi dire che non esistono più due diritti comuni contrapposti, il diritto comune civilistico e il diritto comune pubblicistico, ma soltanto prevalentemente una serie sempre più ampia di istituti comuni che volta a volta assumono caratterizzazioni fuori in senso pubblicistico, fuori in senso privatistico. Quello che è certo è che è scomparsa definitivamente l'amministrazione che si era affidata alle sovradeterminazioni pubblicistiche tipiche di fine Ottocento, cioè è scomparsa quell'amministrazione che la giuspubblicistica ottocentesca l'aveva immaginato come un monolite eretto tutto al di qua del confine con i soggetti privati. Ecco, penso che già questa conclusione, che concludo, potrebbe essere uno stimolo, appunto anche un invito, un impegno a ripensare con altre categorie anche itinerari storici di più lunga durata. Grazie.